140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Buongiorno da Marta Cagnola. Gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi questa settimana con Radio 24. Li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter seguendo il nostro account ufficiale @140caratteriR24, ma anche la nostra pagina Facebook 140 caratteri. Questa settimana una puntata dedicata tutta ai ragazzi e a chi si sente sempre un po' bambino. Teatro Greco, Lipari. Estate, tempo di anteprime, prima proiezione dell'Era Glaciale 4 con i doppiatori Francesco Pannofino, Filippo Timi, Pino Insegno, Claudio Bisio. L'abbiamo visto insieme a voi giornalisti, un'anteprima prima di tutti gli italiani che lo vedranno il 28 settembre, non prima, ai loro. Invece noi ce lo siamo visti in 3D con gli occhialini, perfetto, e ci siamo divertiti. Io mi sono emozionato, mi sono divertito, veramente parlo da spettatore, al di là del fatto che abbia doppiato Sid, con delle soddisfazioni personali particolari quando ogni battuta di Sid entrava, arrivava, anche quelle, le gag disegnate, fatte, previste da sceneggiatori, per carità, erano quasi impossibile che non entrassero, ma mi sono stupito positivamente nel vedere che anche alcuni giochi di parole che c'erano nell'originale, ma noi abbiamo dovuto reinventare in italiano, non so, il cattivo di turno, Pannofino, questo scimmione, dice la collera, e lui si dice c'hai il colera? No, collera, ho detto. Ecco, cito un esempio a caso, no? Che in originale era ovviamente diverso, però abbiamo tenuto questo gioco di parole e arriva, la gente ride, dove speravamo e pensavamo che ridesse, ride, e io rido insieme alla gente. È difficile maneggiare una materia comica che non è tua, è ancora più difficile farlo più volte. Tu ogni volta cosa devi dare di nuovo a questo personaggio? Sai che invece non è difficile, è quasi un regalo avere in fin così con sceneggiature, veramente lo dico non per piaggeria ma perfette, cioè dal punto di vista non solo comico ma anche comico. Io che di comico ne ho maneggiato, ne vedo, non solo su di me ma con i miei colleghi, ci sono delle situazioni nate per far ridere ma fatte benissimo, per cui doppiare una gag che sai già che è perfetta è un piacere fisico, quasi, mi viene da dire. Se in più poi ti dà anche la libertà, cioè sei talmente sicuro che quella, la faccia che fa, il disegno che fa, ti fa già ridere. Per esempio, faccio un esempio a casa per farmi capire: a un certo punto il Sid, appunto, vede delle bacche, lui è uno che fa danni a se stesso, soprattutto autolesionista, ma anche nei confronti di altri, e lì vede delle bacche, prima mangia delle cose, sono delle api, gli punzina, poi ne vede delle altre, fa per metterle in bocca, e ferma, i suoi amici gli dicono, dovrebbe anche fidarsi perché sa che poi gli amici gli dicono la verità, invece no, tutte le volte ci ricasca, e dico guarda che queste bacche provocano il torpore, sono lenza, paralizzano, ma io vuoi dirlo a me che conosco benissimo queste bacche? E quello che gli hanno detto succede assolutamente, te lo aspetti che succede, ridi quando glielo dicono, ridi quando te lo aspetti e ridi quando succede. E lì, per esempio, per almeno, non so, viene da dire un quarto d'ora di film, lui boffonchia, cioè è atrofizzato da questa lingua fuori, vedi ogni tanto delle immagini, lui che passa, e lì era un divertimento anche esagerare, perché era così doveva essere, insomma, no? E quando vedi che in sala, o ieri eravamo all'aperto in un bellissimo teatro greco qui a Lipari, vedi la gente che apprezza questa cosa, ride, è come fare uno spettacolo di cabaret. Quanto ti fanno bene le risate delle persone in questo periodo? Più che mai sono preziose. Tantissimo, perché come dice il mio maestro Dario Fo, senza fare gara tra drammaticità e comicità, però per capire anche la differenza, la comicità, cioè la risata, passa sempre attraverso il cervello, delle sinapsi, cioè un ragionamento, mentre invece il pianto dello spettatore, sto parlando, passa attraverso un'emozione, uno stato d'animo, quindi il cuore, cioè proprio fisicamente sono collocati in modo diverso. E quindi questo fatto che passi attraverso il cervello la risata vuol dire che uno, anche inconsciamente, anche in un nanosecondo, riconosce una situazione, la decodifica, e dall'errore, perché la comicità nasce sempre, la perfezione non fa ridere mai, cioè una cosa bella, armonica, fa ridere la disarmonia, l'imperfezione, la bruttezza, il brutto anatro, cioè gli inciampi, uno che cade, cioè, no? E qui, però a volte sono anche immediate, ma passano sempre attraverso una codifica e decodifica di quello che dovrebbe essere la perfezione, realizzare che questo non è, ridere su quello che è accaduto. Quindi quando ci sono anche le risate involontarie, appunto uno che cade scivolando su una buccia di banana fa ridere suo malgrado, invece quando sei tu a costruire una situazione comica e quando vedi che questo succede riesci a farlo, è un piacere quasi da ingegnere, ti senti un architetto, no? È bellissimo. Eh sì, una minuscola crepa. Fosse solo l'inizio del più grande evento di sempre. Non credo sia stato tu. Pino, hai detto una cosa molto interessante. Tanti livelli di lettura che prendono tanti pubblici diversi per l'era glaciale. Beh, assolutamente sì, c'è una lettura più superficiale che quella dell'avventura, del colore, del 3D, del divertimento, delle espressioni, della gag. Poi c'è un sottomondo straordinario dell'amicizia fra persone diverse che può essere molto più intensa che fra simili. Per cui un messaggio straordinario per far convivere persone di razza, religione completamente diversa, persone, animali che hanno figli anche senza il compagno o che possono amarsi nonostante una differente cultura, per cui ci sono sovrastrutture incredibili, è proprio è stratificato il film e questo siamo arrivati al quarto appuntamento e credo non si fermi neanche più. Per te com'è stata un'avventura così lunga? Ma sai, è bella lunga, io quando... Sai, ogni 3 anni, come il Signore degli Anelli, era fare Aragorn e sapere che poi sarebbe diventato il re degli uomini, era personalmente una cosa bellissima, perché poi sapevo che non ero io a diventare il re degli uomini, ma sono quelle avventure, quegli appuntamenti fissi che ti dai in sala con i tuoi colleghi e anche nelle conferenze stampa, per far parte di una cosa epocale, è la cosa più bella del mondo, un momento storicamente importante per un politico, firmare una legge per noi magari è seguire un film che sarà visto per sempre, è un po' come rimanere un pizzichino di te magari più avanti quando non ci sarai. Una cosa che gli ascoltatori non sanno è che voi vi vedete in realtà per la prima volta, sì, ora alla presentazione, perché ognuno doppia il suo pezzettino da solo. Sì, sì, il doppiaggio, soprattutto quando fai i protagonisti, è così in colonna separata, perché poi missano la fine, ma sembra che ti stai parlando, perché poi quella è la prova del direttore di doppiaggio, dell'assistente, dell'adattamento, dei nostri tecnici, è quella la cosa, ma qualsiasi film mai è così, si fa tutto in colonna separata, poi me ne accorgo dopo, magari in sala chiedo chi era quello o quell'altro, quando noi facendo doppiaggio costantemente... magari ci capita più spesso per un attore che gli capita di fare il cartone, è una novità, però ormai è così, si fa così. Ti è piaciuto, eh? Da morire, no? A me è bellissimo, lo dico da bambino e da adulto, ma anche perché non l'avevo visto, cioè tu fai i tuoi pezzi, io quando ho doppiato Mark Wahlberg in Departed mi sono accorto alla fine che quello era un assassino, cioè non lo sapevo, perché lì non parlava, per cui non l'ho doppiato e il direttore giustamente non mi ha detto niente, se no l'avrei doppiato in modo tale che si capiva che già andava a finire in un certo modo. Per cui no, bellissimo, davvero bello, ma non devo dire, tanto non lo dirò io, lo dice la gente. Cosa c'è di più bello che intervistare per la radio uno delle più grandi voci italiane? Grazie, sei molto gentile. Francesco Pannofino. Senti Francesco, com'è stato fare il tuo mestiere da doppiatore in questo film? È interessante vedere questi film che sono doppiati da doppiatori e da attori. Tu come ti sei amalgamato in questo film? Beh, diciamo, io ho una certa dimestichezza col doppiaggio, quindi diciamo parto avvantaggiato dal punto di vista dell'esperienza, però devo dire che è un film dove ci sono appunto mischiati doppiatori abituali e chi attori che non sono abituati a fare il doppiaggio, devo dire la differenza non si sente, nel senso che è tutto molto coerente e amalgamato. E quindi direi che insomma il risultato è abbastanza soddisfacente secondo me. Visto che è arrivato Filippo Timi, ti chiedo com'è stato, visto che per lui era la prima esperienza. È stato bravissimo, cioè, sembra che parla il mammut, cioè è impressionante. No, devo dire che è stato bravo, a parte che lui ha un talento, è un attore bravissimo, e quindi poi insomma il doppiaggio c'è anche una componente tecnica che è quella che ti fa perdere più tempo se vuoi, no? E, insomma, lui è stato aiutato anche da Marco Guadagno, che è il direttore del doppiaggio, che ha aiutato tutti, e comunque il risultato è ottimo, ottimo, bravo, bravo Filippo. Puoi che fare ne dici? Puoi fare il doppiatore, ti dici? Ma scherzi, allora, no, no, io sono fan suo, proprio ha una voce, ma poi come canta, l'hai sentito? E con la voce tu non puoi fingere, una bella faccia messa in un contesto magari ti può fregare, puoi sembrare un bravo attore. Quando doppi un film non puoi fingere, perché la voce non finge. È vero, Filippo, che adesso tu hai un punto d'onore nei confronti dei tuoi nipoti, perché finalmente, certo, è questa l'importante. Ora, sì, perché io non vedo l'ora che loro comincino a spacciare con i compagni di scuola. Io conosco il mammut dell'era glaciale e io sarò pronto a parlare al telefono con i loro compagni di scuola come appunto Manny, e quindi non vedo l'ora di spacciarmi per il mammut che sta a casa con loro. Scherzi, ma è un onore, cioè se fosse successo a me, che mio zio il poter dire io conosco Paperino, chiamiamolo, hai capito? E qui Manny. Lo zio Manny adesso diventerò, e non zio Filo. Non è male, è un upgrading, niente male, proprio. Altro che prima classe, proprio. Di più, jet privato. Ritorniamo insieme con gli incontri, gli eventi, i protagonisti di una settimana di spettacoli. Li abbiamo seguiti tutto in tempo reale via Twitter, giorno per giorno, tra conferenze e presentazioni stampa. La televisione nella seconda parte del nostro 140 caratteri. Teatro greco, Lipari. Amato dai più piccoli, parla anche ai loro genitori. Su Fox Life, tutti i giorni, ci insegna a mangiare bene. Andiamo a conoscere Marco Bianchi. E mi definisco un malato di cucina con una base scientifica, cioè uno chef scienziato, quindi si addice insomma il nome, direi, perché nasco proprio come tecnico di ricerca biochimica, legato al mondo più oncologico, perché è da lì che appunto provengo dall'istituto europeo di oncologia, poi approdato all'IFON, che quindi è il centro di riferimento per eccellenza legato proprio alla ricerca sul cancro in Italia. Da questa piattaforma scientifica in cui sono immerso da 12 anni, sono poi un po' sempre tenuto collateralmente quella che era la mia passione legata al cibo. Passione legata al cibo e quindi alla correlazione tra cibo e patologie. E tutto questo lo sto portando avanti da 5-7 anni con diversi progetti editoriali, televisivi, a volte radiofonici, insomma. Cerco di fare il divulgatore scientifico da questo punto di vista a 360 gradi. Come si parla in televisione a grandi e piccini? Bella domanda, ma così come sono? Cerco di arrivare all'obiettivo innanzitutto in maniera molto diretta, senza troppi giri di parole. E poi sì, con la semplicità, insomma, in qualche modo parlando e raccontando magari anche piccoli aneddoti, però il più possibile reale, insomma, perché non devi ovviamente camuffare l'idea, devi sempre arrivare e a volte anche magari spaventare, ma è giusto per poter spiegare realmente come stanno le cose. Tu cosa pensi del fatto che la televisione italiana ormai è diventata un'unica grande cucina? È vero, è vero. Ma cosa ne penso? Sicuramente ci fossero più ricette come le mie, sarei anche più contento. Purtroppo non è sempre così, nel senso che qualche volta qualche chef o comunque in qualche trasmissione a volte viene messa qualche ricetta dedicata più alla salute. Però è ancora l'eccezione, nel senso è appunto il qualche volta che in cui si ritrovano questo tipo di ricette. Dovrebbe invece pian piano passare il messaggio che mangiare sano non vuol dire essere in castigo, ma allo stesso tempo si possono sostituire certi alimenti che sono purtroppo invece dannosi al nostro organismo con altri che sono altrettanto buoni, gustosi e che comunque danno una rendita al piatto del 100%. Quindi bisognerebbe sì, in qualche modo, di questa grossa cucina, insomma, risistemare un po' le dispense. Confermo, perché ho appena fatto una colazione Marco Bianchi style sontuosa. Marco, ci dai un consiglio per quest'estate che inizia già caldissima? Dacci un consiglio per stare meglio. Per stare meglio non ho inventato nulla, perché vanno in giro da tanto tempo, però ho sperimentato su me stesso, con gli amici e anche con i bambini soprattutto, queste mega insalatone a base di frutta e ortaggi insieme e anche cereali. Quindi pensiamo semplicemente veramente a del farro, a dell'orzo lessato, è triste così com'è, però arricchiamolo con dei cubetti, una dadolata di melone ad esempio, di albicocca all'interno, qualche oliva nera magari, perché almeno contrasta il dolce della frutta. E poi ovviamente, perché no, qualche verdura che più ci piace, il tutto aromatizzato con qualche erba aromatica, fresco se vogliamo della mentuccia, vogliamo del timo, dell'origano, fresco sarebbe l'ideale, e soprattutto condito con olio extravergine d'oliva, in modo tale che assimiliamo anche tutte le vitamine presenti. Porto Canale, Bellaria, Igea Marina. È la voce della musica per bambini, tutti abbiamo cantato almeno una delle sue sigle. In TV su Super con Super Karaoke Cristina D'Avena. Beh, devo dire sì che i fan hanno cercato in tutti i modi di farmi tornare in TV, perché, ma non solo i fan, anche proprio le mamme, le giovani mamme, cioè chi è cresciuto con Cristina e che continua a seguire Cristina la vuole vedere in TV. Poi tu considera che ho iniziato 3 anni lo Zecchino con il Moscerino, quindi ci sono anche tutte le nonne che aspettano Cristina, perché sono sempre stata nelle case degli italiani e ormai sono come una loro amica, e quindi questo mi ha fatto veramente un immenso piacere, oltre a darmi una grande emozione, perché il fatto di essere tornata comunque con un programma come conduzione assieme a Patrick in un canale nuovo, comunque in chiaro, che è il canale appunto Super, con la De Agostini, insomma, sono tanti elementi importanti, quindi io ci credo moltissimo. È una cosa importante il fatto che sia una trasmissione dedicata alla famiglia, in un canale dedicato alla famiglia, nel momento in cui la televisione ha perso un po' la bussola. Bisogna ritrovare un po' ritornare alcuni valori. Secondo me sì, cioè la televisione, sai, è importantissima, perché tutti hanno la televisione a casa ed è questa scatola magica, io la chiamo così, dove i bambini poi si avvicinano, accendono e guardano, no? Quindi insomma devi sapere quello che mandi in onda, devi stare attenti ai contenuti, e quindi è normale che un programma come il Karaoke, che è un programma pulito, divertente, dove in realtà poi si canta, ci si diverte, tutto quanto, insomma è l'ideale, capito, per aprire insomma questo nuovo canale, no? Per far abituare insomma comunque il pubblico a questo nuovo canale sul digitale, e con Cristina e Patrick e poi sicuramente tanti altri personaggi. Intanto hai avuto un passaggio di testimone straordinario, qualcuno che ti ha fatto un bel regalo, dai. Un regalo speciale, e infatti lo ringrazio. Fiorella è una persona meravigliosa, e ho avuto modo di incontrarlo varie volte, ed è una persona vera, una persona così come la vedi in TV è nella vita, ed è un grande professionista oltretutto, e quindi mi ha fatto veramente un grandissimo regalo. Grazie Fiorello. Tu sei sempre una ragazzina, però sono 30 anni di carriera, un cifrone. Un cifrone, non andare oltre, un cifrone, è vero, tanti anni di carriera, ho iniziato da ragazzina e spero di averne altri 30, 60, 90, cioè per me questo lavoro è veramente la vita, perché lo faccio con un amore e una passione infinita. Dedico veramente la mia vita al mio pubblico, a chi mi ha dato proprio la possibilità di fare questo lavoro, perché questo è un lavoro bellissimo, dove ognuno di noi ha la possibilità di esprimersi, è arte, e hai proprio la possibilità di parlare alle persone che sono lì che ti guardano, e questo rapporto diretto è meraviglioso, no? Quindi attraverso il teatro, attraverso i concerti che faccio ad esempio, attraverso questa opportunità del karaoke, il fatto di avere appunto il pubblico vicino che ti guarda, ti fa domande, ti vuole toccare, ti vuole parlare, e tu hai la possibilità di farlo, questo per me è il top proprio. Devo per forza chiedertelo, qualcuno ti ha chiesto se tu faresti mai Sanremo, perché non ti è mai venuto in mente di fare un altro tipo di musica, nonostante tu abbia amato quello che hai fatto? No, io amo quello che faccio, ma mi piacerebbe anche cantare altro. Io ad esempio ti posso dire che farei le cose più strane, ad esempio mi piacerebbe fare, che ne so, collaborare con David Guetta. Perché no? Trasformare un mio pezzo in, che ne so, in versione house, oppure mi piacerebbe cantare delle canzoni pop italiane alla Laura Pausini, magari con lei, perché no? Cioè, voglio dire, a me piace cantare, quindi poi indipendentemente da quello che io ho sempre fatto e che continuo a fare, che è la sigla, a me piace cantare. Ecco, magari non canterei mai musica rock perché non mi ci sento tanto, non mi ci ritrovo granché, però tutto il resto mi piacerebbe moltissimo, sì. Ed è tutto per il 140 caratteri di questa settimana. Continuate a seguirci ogni giorno attraverso il nostro account ufficiale @140caratteriR24, ma anche la nostra pagina Facebook 140 caratteri. L'appuntamento in radio è per la prossima settimana.